siamo? Let's go! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ancora Perisic, movimento di Icardi in mezzo, Joao Mario ancora! La prima volta di Joao Mario con la maglia dell'Inter, rilancia i nerazzurri. Di Gennaro si gira, mette questo pallone dentro, Borriello, poi Melchiorri! Il pareggio del Cagliari, ancora Melchiorri, il suo secondo gol in Serie A. Cagliari ancora pericolosamente davanti! Melchiorri fa ancora sognare il Cagliari, 2-1 a San Siro con deviazione, a poco più di 5 minuti dalla fine, il Cagliari ha ribaltato tutto. Riassunto sonoro del pomeriggio da psicodramma interista, battuta l'Inter in casa dal Cagliari, 2-1 di rimonta, l'avete sentito, contestazione contro Icardi, poi ne parliamo, rigore sbagliato dal capitano nerazzurro, fischi da una parte della curva, applausi dal resto dello stadio, poi fischi ancora, credo, da tutti, alla fine di una partita che il Cagliari ha vinto meritando a San Siro, anche se ha vinto di rimonta. Inter che è a 10 punti dalla Juventus, è dodicesima in classifica in questo momento. De Boer che ha perso 5 partite su 10, Cagliari che prima di vincere a San Siro in trasferta aveva fatto 0 punti, 2 gol fatti, 9 subiti. Non lo so, se volete aggiungere qualcos'altro siamo qui. 800 24 00 24, prenotatevi per intervenire in diretta fino alle 19. Processone all'Inter, ma parliamo anche di altro. Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Io non so se siamo ai titoli di coda, cercheremo di capirlo anche adesso collegandoci presto, no? Da San Siro con il nostro Dario Ricci. Dario. Ah, eccoci ragazzi da San Siro, già microfonato il mio ospite Andrea Sorrentino, inviato della Repubblica. Ciao. Beh, Andrea. Non si sa da dove partire. Ciao a tutti. Dal tabellino che recita il 2-1 per il Cagliari, abbiamo detto la contestazione di Icardi, il calcio di rigore fallito, sì, da Icardi al 24esimo del primo tempo per un fallo di Bruno Alves rilevato prima da Rizzoli, assistente di porta, e poi dall'arbitro Valeri, poi al 56esimo il vantaggio di Joao Mario e nel finale la doppietta di Melchiorri, anche se poi il secondo gol è un autogol di Andanovic, sì, che era stato il migliore in campo, anche... Fili, anche un, sì, un peccato, sì, diciamo, sì, per lui. Però anche lì Andanovic sbaglia completamente, sì, l'uscita, sì, sul calcio d'angolo e poi si butta la palla in porta. Insomma, le ha fatte tutte nella sensazione. Sì, allora dai, ditemi, De Boer rischia o no? Perché poi è questa la domanda. Quando un allenatore perde la metà delle partite, io credo che la domanda sia legittima. Se fossimo in una società di calcio strutturata regolarmente, con dei dirigenti presenti e che siano in grado di decifrare le cose del calcio, io ti direi che Fran De Boer non può non rischiare, perché finora l'Inter non è stata una squadra e la vittoria sulla Juve fu altamente illusoria, come io purtroppo intuì subito, perché quella di quel giorno non era la Juventus ma un'altra squadra con le maglie della Juventus. De Boer non ha dato un'identità a questa squadra, nel resto ha avuto anche poco tempo, ma soprattutto non le ha dato una impermeabilità difensiva che sarebbe necessaria, e ancora peggio, oggi ha completamente fallito la gestione della gara nel secondo tempo con dei cambi assurdi che hanno consegnato l'Inter a un finale di gara con 4 attaccanti, due dei quali erano Jovetic e Der, gli altri due Perisic e Icardi, 3 difensori, 3 centrocampisti che erano Gnucuri, Medel e Joao Mario, insomma un pasticcio tattico assurdo su cui il Cagliari si è infilato alla grande e ha segnato i due gol della vittoria meritatissima. De Boer non può non essere in discussione, ma ripeto, se fosse un club, secondo me il club non c'è, e la prova sta nel fatto che oggi, e parliamo anche del fatto di Icardi, da una lite che c'è stata tra Icardi e la curva per un passaggio di un libro che parlava di fatti di 2 anni fa, la società ha preso posizione attraverso Xavier Zanetti, vicepresidente, dicendo che Icardi non si doveva permettere e che la curva ha ragione. Sì, secondo me questo poi, è un comportamento vergognoso da parte della dirigenza. Poi di questo parliamo. Sono abbastanza d'accordo con agli ultra, con te, ma hai ragione. Però, agli ultra, ma hai ragione. Poi abbiamo letto i passaggi di Icardi, certamente molto forti. Si è trattato di una lite, di una gazzarra. Alcune delle cose tra quelle se le poteva pure evitare, alcuni dettagli tipo faccio venire 100 criminali dell'Argentina e facciamo mettiamo a fare fuoco Milano, lasciamo stare ste, sì, sì, ste assolutamente soluzate. Però per quanto riguarda l'Inter, l'Inter è una squadra che non ha una faccia, e secondo me De Boer, che pure considero un uomo intelligente e un bravo allenatore, ancora alla prova dei fatti naturalmente, ha sbagliato nel voler imporre immediatamente le sue idee. Gli allenatori un po' più scaltri cosa fanno? Prendono quel poco di eredità che esiste e la portano avanti. Il massimo esempio è stato, per dire, Max Allegri nel passaggio con la gestione Conte, ma ne abbiamo altri di esempi. De Boer è arrivato e ha detto: adesso si fa come dico io. Ha provato a fare la rivoluzione. La rivoluzione. Dario e Andrea, cosa ne pensate? Beh sì, in effetti, ecco, poi lascio subito la palla a Andrea, in effetti questa rivoluzione non sta avvenendo. Oggi mi ha colpito personalmente in negativo la controprestazione di quello che pure doveva essere il grande conducatore di questa rivoluzione, Ever Banega, no Andrea? Ever Banega è un calciatore nella seconda metà della carriera che ha giocato bene alcune stagioni del Siviglia, poi per motivi che non conosciamo e che forse cominciamo a capire, il Siviglia l'ha lasciato andare in lista gratuita e forse qualche motivo c'era. Per me Banega non è uno dei migliori acquisti dell'Inter di questa estate. E per il resto De Boer è un allenatore che forse sarà bravo, non so, io non lo so valutare Carlo, perché è un allenatore che ha guidato l'Ajax per 262 partite e solo l'Ajax è arrivato primo o secondo in un campionato olandese di cui conosciamo, insomma, in cui l'Ajax cose. Arriva mediamente primo o secondo. Esatto, l'Ajax arriva primo o secondo da 50 anni e qui De Boer ha guidato l'Inter per 10 partite, non abbiamo visto granché. Io poi non gli do neanche tantissime colpe, perché ripeto, se prendi De Boer lo devi prendere 3 mesi prima per farlo abituare a tante cose italiane. Se lo prendi il 10 agosto a 10 giorni all'inizio del campionato è una follia che pagherai a caro prezzo, come in effetti l'Inter sta pagando. Ma ripeto, il problema dell'Inter è che non c'è un club. Signori, l'Inter non ha dirigenti, non ha gente in grado di decidere cosa debba accadere a questa squadra e cosa si debba fare per migliorarla. Questo quindi, è il vero grande dramma dell'Inter. Escludete che nelle prossime ore possa capitare qualcosa? Escludete che nelle prossime ore possa capitare qualcosa? Ma è molto difficile da dire, soprattutto sia in relazione alla fascia di capitano, anche se la presa di posizione di Zanetti è molto forte. Mi sentirei di escluderlo ancora per De Boer, perché le colpe che abbiamo riconosciuto, sì, no Andrea, in parte sono anche i suoi alibi, insomma. Esatto, e poi non c'è in questo momento la volontà da parte del club di cambiare allenatore, non c'è la possibilità, e poi c'è la solita cosa: a chi dai l'Inter in questo momento, dopo consegnando a un'altra rivoluzione tecnica a metà ottobre? Secondo me l'unica è aspettare e stare penso, vicino a questo allenatore. Però io penso, Andrea, basterebbe un allenatore normale. Sì, ecco, trovatevi un allenatore normale. Io ti ho ascoltato con grande interesse prima. L'errore di oggi è l'errore del secondo tempo di Inter Bologna, partita consegnata a una squadra minimamente organizzata che nel secondo tempo domina, sì, perché tu giochi con 4 punte e rischia di vincere. Oggi il Cagliari ha vinto. Esatto. Se Candreva butta 1000 cross in mezzo e nessuno attacca al primo palo, c'è un problema proprio di allenamento, di organizzazione. Certo, di addestramento. Poi gli alibi e le attenuanti di De Boer sono che lavora ben poco e ben di rado con questa squadra per via degli impegni delle nazionali e anche per le partite di Coppa che ci sono durante la settimana. Quindi ovviamente non ha avuto il tempo di fare un addestramento come si deve, perché non l'ha avuto, non gli è stato dato e non poteva averlo, e questo è stato l'errore a monte. Io vi devo lasciare, ragazzi, fuggo. Vi dobbiamo lasciare anche noi, grazie Andrea. Dario, però tu resta lì perché torniamo ovviamente io a San Siro. Qua, sì. Perché c'è da respirare che cosa succede in questo post partita. Abbiamo il traffico, 800 24 00 24, io vi aspetto, soprattutto gli interisti. Il mio parere è che l'Inter abbia bisogno di un allenatore normale. Capisco gli alibi, capisco il fascino della scelta di De Boer, però l'Inter oggi ha bisogno di un allenatore normale, perché così rischia di sprecare anche quel talento che ha. Ma secondo questo me è il mio pensiero. Cambiare ancora allenatore dopo 10 partite, Giovanni, sarebbe un altro piccolo psicodramma. Cioè, terzo allenatore bruciato in 2 mesi mi sembrerebbe un po' eccessivo perfino per qualcuno affetto dallo zamparinismo, però ha totalmente ragione Andrea Sorrentino quando dice che il pesce puzza dalla testa, cioè nell'Inter c'è molta confusione societaria, in parte inevitabile, ma alla quale rimediare al più presto. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Non ho proprio più la pazienza di sopportare questa gente che indossa indegnamente la maglia dell'Inde! Oh, che quelle sono quattro multe qui! Ma chi cazzo sono? Tutti convocati. Parte Icardi! Sbaglia il rigore Icardi al 26esimo. Poteva essere il settimo gol in campionato, ma poteva essere soprattutto la prima volta a San Siro in vantaggio in questa stagione per l'Inter, e invece Icardi ha sbagliato il rigore. Adesso viene comunque applaudito da, devo dire, tutto lo stadio, che evidentemente si rende conto del momento di difficoltà anche emotiva, psicologica di Icardi, che è stato, lo ripetiamo, contestato da una parte della tifoseria per e non vorrei incidesse sotto l'aspetto dello stato d'animo, potrebbe incidere. Psicodramma che anche questo rigore sbagliato da Icardi in una domenica in cui parte della curva l'ha pesantemente contestato per quello che ha scritto nella sua autobiografia. E una partita preceduta da queste parole di Zanetti, vicepresidente dell'Inter, sui comportamenti che non si possono accettare. Un errore scrivere queste parole, ricostruire questo episodio in un'autobiografia, insomma, come la prende la società, ci saranno dei provvedimenti? Purtroppo sì, noi come società e i tifosi sono la cosa più importante, tutti lo dobbiamo rispettare, noi non possiamo accettare questi comportamenti. E poi quello che capiremo se accadrà nelle prossime ore, quando dice ci saranno provvedimenti. Che era quello che abbiamo sentito. Chiedo scusa, adesso recuperiamo anche la voce di De Boer nel dopo partita di questo Inter Sassuolo. Io credo che una società non si debba far dettare la linea. Bravo, dalla Giovanni. Curva. Però bravo, io credo che in qualunque azienda tu lavori non puoi continuamente mettere a rischio l'equilibrio di quell'ambiente. Tu non puoi scrivere un libro però in cui sostanzialmente danneggi l'ambiente in cui lavori. Non mentre ci lavori. No, sono d'accordo. Icardi faceva riferimento specifico alla frangia più oltranzista del tifo nerazzurro. Secondo me i club devono smettere di recare il culo ai tifosi, a quelli della curva. Quindi Icardi descrive un episodio ben preciso, questo del lancio della maglia dei pantaloncini ad un bambino, il capo ultra che strappa la roba al bambino, glieli ritira in faccia, lui lì si è giustamente arrabbiato, perché mi sarei arrabbiato anch'io. Poi c'è stata questo battibecco, questa lite, quell'altra frase sui 100 criminali dall'Argentina è totalmente inopportuna, è una follia, però secondo me bisogna smettere anche di appecoronarsi davanti. Io la fascia Icardi non la toglierei giusto per non darla vinta alla curva, però io è da stamattina che sto con la memoria cercando di ricordarmi un atleta che abbia scritto un'autobiografia mentre gioca e parlando di fatti della società per la quale gioca. È da quest'estate che Icardi da capitano, secondo me, è un elemento destabilizzante. Poi in campo i gol li ha fatti oggi. Ma secondo me male. È stato sbagliato già l'anno scorso dargliela la fascia di capitano, perché non è chiaramente maturo. Lo schiacci di responsabilità comunque un ragazzo che è bizzarro, fragile, estroso, giovane, altalenante come rendimento. L'anno scorso non ha giocato bene. Mettila come vuoi, secondo me è stato un errore l'anno scorso caricarlo di questa responsabilità. La fascia di capitano dell'Inter doveva finire su un altro braccio già dall'anno scorso, adesso sarebbe un doppio errore quella di levargliela. Dario Ricci da San Siro, Dario. Eccoci, abbiamo agganciato al volo un altro amico di Radio 24, Alessandro Pasini del Corriere della Sera. Subito una battuta, Alessandro. Qui alla fine ha fatto bene la società con la presa di posizione di Zanetti che abbiamo appena sentito a schierarsi immediatamente con la curva, oppure secondo te? Beh, no, ho sentito quello che diceva Carlo e sono sostanzialmente d'accordo. Credo che poi l'errore in questo caso stia a priori, cioè giustamente forse andava letta prima da parte dell'Inter e opportunamente vagliata, anche se a me questi dibattiti, tutta questa questione sembra un po' grottesca, perché costruita sul nulla, su episodi insomma che lasciano il tempo che trovano, però ad ogni modo insomma credo che fosse il caso di vigilare e di leggerla prima, insomma, come sempre, perlomeno come spesso accade in questa società, insomma, si interviene dopo che il danno. Sì, ma se Alessandro non era ancora stata tradotta in cinese, allora nessuno poteva darci un'occhiata. Ma vi aspettate che gli venga tolta la fascia? Adesso poi tutto viene superato dallo psicodramma visto in campo, perché l'Inter ha fatto pure peggio del prepartita. Clima d'inferno. Oggi un clima d'inferno a San Siro, Alessandro, per Icardi, adesso questa fascia. Adesso vedremo, adesso ci inabissiamo qua nella pancia di San Siro per cercare di capire cosa succede. Il vero problema, intanto questo è stato un problema perché giocare così, adesso io non voglio difendere nessuno, non è una difesa, è una constatazione, credo non sia facile, anzi non credo, ne sono convinto e lo si è visto dagli errori di Cardi, dal rigore anche da una palla gol che poteva chiudere la partita, un colpo di testa insomma abbastanza facile. Ad ogni modo, al di là di questa questione, resta il vero problema è quello tecnico, tattico, di conduzione. Credo che lo psicodramma debba essere un capitolo, ma credo è molto meno interessante e importante del disastro tecnico-tattico che si è visto oggi e sul quale De Boer dovrà intervenire in fretta, perché lui o qualcun altro c'è margine che... io adesso non è che si può, un allenatore è stato esonerato fuori tempo massimo quasi, cioè all'inizio del campionato, quando ormai la preparazione l'aveva fatta Mancini. E adesso se vogliamo esonerarne un altro, insomma, io credo che... Però certo, insomma, i danni sono abbastanza evidenti. Io credo che questo allenatore non abbia ancora capito le trappole del campionato italiano. Sta imparando la lingua, ma non sta imparando il campionato. Forse è più importante che si rifletta su questa, che rifletta su questa Serie A, perché poi noi lo ripetiamo, rischiamo di essere banali, forse lo siamo, ma in Serie A dice la retorica e la leggenda, no? Nessun avversario è facile, e lo ha dimostrato questo Cagliari, che insomma non è una squadra di fenomeni, ma ha giocato semplicemente a calcio ordinatamente e l'ha messa dentro, e si è visto tante volte questo nel calcio italiano. Sì, basta una squadra organizzata in questo momento per dar fastidio all'Inter. Rispondimi con un numero, domani che voto leggiamo sul Corriere della Sera per De Boer? Per De Boer? Ma io credo, certo non superiore al 5, questo è poco ma è sicuro. La scelta anche della difesa 3 finale mi è parsa molto olandese e quindi poco accorta, perché poi non dimentichiamo che tutte queste grandi tradizioni tattiche si fondano su grandi giocatori, quindi poi rischiare, se non hai giocatori non c'è genio tattico che conti. Quindi sì, 4-5, il voto conta poco, conta che l'Inter non solo ha più 10 dalla Juve che fa un altro campionato, ma ha mancato una partita fondamentale per tenere il passo della Roma, agganciare il Napoli, ridarsi fiducia dopo Roma che non era stata un disastro, e quindi insomma ha perso secondo me una partita molto importante sul piano simbolico oltre che su quello di classifica, perché dipende come la leggiamo, ma se siamo pessimisti a destra nella classifica, poi se fai 2 punti in casa tra Palermo, Bologna e Cagliari qualche problema evidentemente alla fine, e poi c'è anche nel conteggio dei punti. Grazie Alessandro Pasini, Corriere della Sera. Dario, io ti saluto, poi in realtà se vuoi ti richiamiamo perché vogliamo capire se succede qualcosa. Adesso sentiamo De Boer. De Boer a proposito della partita di oggi, i microfoni di Mediaset Premium. Cos'era? Paura di vincere? Sì, sto d'accordo con lei, perché per me dopo la nostra gol abbiamo dimenticato giocare, e per me normalmente deve essere più facile, perché l'avversario deve pressionare e dopo è meglio per noi, perché hai più spazio per noi. E l'Inter ha smesso di giocare, Carlo, dopo aver trovato il gol del vantaggio con João Mario, tra l'altro anche in maniera abbastanza casuale. Sì, ha smesso di giocare, ma poi tu hai ragione, alla fine De Boer ha disegnato uno scarabocchio che era un orrore, no? L'Inter vista nel finale in campo è stata normalmente rimontata e battuta da una squadra normalmente organizzata a pallone. E ha ragione Pasini quando dice che sta provando ad imparare l'italiano anche con buoni risultati, ma non ha ancora capito il calcio italiano. Torno a quanto detto da Mondonico in settimana, che ho ripetuto anche troppe volte, di quel famoso colloquio che ebbe col allora presidente della Roma Viola, che gli disse: se prendo un allenatore straniero gli devo dare 6 mesi di tempo per capire la lingua e per capire il campionato, eccetera. sei mesi sono un tempo insostenibile. Sì, soprattutto per chi deve arrivare terzo, arrivare in Champions. Esatto. Scrive un amico 349-238-6666. De Boer ha rivoltato il calzino dell'Inter, peccato che il calzino non l'abbia cucito lui. Un altro amico, l'Inter gioca con schemi complicati non assimilati. Sì, ma non è di un cattivo materiale sto calzino. No, difatti, può certamente rendere meglio. Andrea chiede se Icardi ha sbagliato volutamente il rigore, non scherziamo nemmeno. Andrea, assolutamente. A proposito di Icardi, le parole di De Boer su Icardi. Non una grande giornata per Icardi, al di là anche del rigore sbagliato. Crede che anche dal punto di vista psicologico lui abbia patito questa situazione che si è vissuta oggi? Non lo so, però che sta nella testa sicuramente, però normalmente è un giocatore che sta molto calma in questa situazione, però oggi magari un'altra situazione. E poi vedremo De Boer davvero cosa ne pensa. 800240024, Graziano dalla provincia di Pavia. Graziano. Sì, buongiorno. Eccoci. Dunque, la partita l'ho vista, come l'hanno vista in tanti, e non ci siamo proprio. Cioè, il gioco è scadente, come dicevate voi, non c'è azione. Siamo veramente lontani. Ho l'impressione che con Mancini a questo punto del campionato avremmo fatto sicuramente più punti. Non solo per l'esperienza del tecnico marchigiano, ma anche per ovvi motivi, insomma, errori proprio banali. Cioè, secondo me i giocatori non sono neanche male. Poi oggi il risultato è stato un po' esagerato, si poteva anche pareggiare. Però, caspita. Cambiava poco, ma poi... Sono d'accordo con Mancini, ma non abbiamo una controprova, ma ci sarebbero stati più punti semplicemente perché era un allenatore che stava lavorando da un anno e mezzo con quella squadra, quindi una traccia di gioco c'era. L'Inter soffre terribilmente le squadre che sono organizzate in maniera logica e razionale, come il Cagliari è, come il Bologna è stato a San Siro, e lì va in palla, ma proprio perché l'Inter a me sembra l'esatto opposto di queste squadre, molto più piccole ma molto più organizzate. Sì, certamente, grazie. Dario per l'ultima da San Siro. Dario, no, c'è qualche problema di collegamento. 800 24 00 24, vi facciamo sentire Simone Inzaghi, che ha agganciato proprio all'ultimo secondo il pareggio in casa contro il Bologna, a proposito di squadre organizzate. 82% di possesso palla, poi Marchetti praticamente non ha fatto una parata, noi abbiamo preso pali, traverse, Da Costa parava tutto e purtroppo poi abbiamo rischiato seriamente di perdere questa partita. Poi siamo stati bravi a chiedersi fino alla fine a fare 1-1, però c'è rammarico, sono contento che ho visto i ragazzi nello spogliatoio, c'è rammarico anche nei ragazzi perché... Sì, avevamo raggiunto il risultato alla fine, però volevamo vincere questa partita e penso che l'avremmo meritato ampiamente. C'è rammarico. Questo Simone Inzaghi, Lazio, che ha tirato fuori il pareggio al 97esimo su calcio di rigore di Immobile. Appunto, l'ultimo secondo è stato buono, 52esimo. 52esimo, sì, 52esimo sì. Del secondo tempo, di una partita però che non meritava di perdere. No, tante occasioni. Tanti bei salvataggi del portiere del Bologna Da Costa, alla fine è arrivato il pareggio di Immobile. Lazio che poteva oggi andare a cena seconda in classifica insieme alla Roma, e invece è un'altra delle squadre che si iscrive al club di quelli che hanno dei rimpianti in questa domenica. 800 24 00 24, è stata anche la domenica dei campioni del mondo, ne parliamo, ciclismo, soprattutto MotoGP, con il titolo di Marc Marquez. Ci fermiamo 2 minuti e torniamo. Tutti convocati. De Boer a Milano vuol dire che sei di burro. Sa me che dura poco quello lì a Milano il sole, eh? Rieccoci. Tutti convocati. Marc Marquez sgondola ancora prima di consegnarlo per la quinta volta il titolo di campione del mondo. Questa moto che è stata tanto discussa all'inizio stagione, ma che per la verità il suo sporco lavoro l'ha fatto alla grandissima tra le mani di questo giovane fenomeno che diventa campione del mondo. Si volta dietro, non c'è nessuno, manda calci di allegria verso il muretto. Marquez c'è ed è campione del mondo. Yeah, come on, please, but she still says no. non mi aspettavo qua. Giovedì già ti ho detto è impossibile, domenica, perché deve succedere tante cose, ma sono molto molto contento perché dai, questo campionato abbiamo lottato tantissimo. Valentino è stato molto forte, Lorenzo anche, ma bene dai, vincerlo qua, Giappone, anche abbiamo ha fatto una gara molto molto buona e dopo di l'anno scorso, di tutti quegli errori che ho fatto, era importante vincere questo anno e lo abbiamo fatto. Dopo un buon weekend, Paul di ieri, anche oggi in gara, sicuramente con Marquez sarebbe stato difficile, però più o meno come passo eravamo lì. Purtroppo sono caduto, è stata veramente, non, cioè proprio non me l'aspettavo. È stato un grande peccato perché andiamo a casa a mani vuote. Marquez campione, quinta volta, campione del mondo, considerate tutte le classi, terza volta nella MotoGP, 23 anni, alla sua età Valentino Rossi ne aveva vinte 4 di mondiali, 2 tra 500 e MotoGP, perché adesso bisogna fare i paragoni, bisogna farli veri, per questo che è un fuoriclasse assoluto e quindi abbiamo chiamato Giacomo Agostini. Convocatissimo Giacomo, ciao, buonasera. Giacomo. Ciao a tutti, buongiorno. Posso dire che questo è il vero capolavoro di Marc Marquez, il più grande capolavoro della sua fin qui giovane carriera. Ha vinto un mondiale con una moto che era inferiore alla Yamaha, lo ha vinto con la testa, con il cuore e anche con i muscoli, dimostrando in Spagna nell'ultima corsa, quando gli altri si sono fatti qualche illusione, ha fatto un ruggito, come dire: ragazzi, guardate che se io voglio posso fare ancora quello che voglio. Quindi era solo questione di tempo. Secondo me il vero obiettivo di Valentino Rossi adesso è quello di arrivare davanti a Lorenzo, non ce n'erano altri. Marquez quest'anno ha fatto un grande campionato, ha guidato veramente da campione, ha saputo risparmiarsi quando c'erano delle difficoltà e quindi cosa hanno combinato per quei due lì? Quei due quali? Quindi direi che ha fatto un po' di gare con tanta aggressività e un po' di gare con usando la testa, quindi facendo ragioniere, quindi l'hanno direi che il campionato se l'ha meritato, perché veramente ha fatto delle cose molto già da direi da come si può dire da grande vecchio campione, ecco. Ma a che punto lo mettiamo, se possiamo fare una lista dei campioni? Presto, anche se ha 23 anni, presto. Insomma, direi che lui è sulla strada per è già grande, ma è sulla strada per diventare veramente uno di quelli che vincono nel tempo. Quindi anche quest'anno ha vinto. L'anno scorso purtroppo non ce l'ha fatta, 2 anni fa ha vinto e direi che c'è da aspettarci ancora tanto perché è tanto giovane ancora. Secondo te quanto si mangia le dita la Yamaha, come ti dicevo prima, per aver perso un campionato con due grandi piloti e una moto che era, non dico neanche teoricamente, realmente più forte dell'Honda, soprattutto nella prima parte del mondiale? Hanno interpretato il nuovo regolamento più velocemente di tutti gli altri, infatti la Yamaha all'inizio era superiore a tutti, poi giustamente lavorando durante l'anno anche la Honda ha migliorato, quindi si sono avvicinati, poi avendo un grande campione come Marquez che quest'anno non ha corso solamente col cuore ma ha corso con la testa anche, oltre al cuore con la testa e oltre alla, diciamo, alla, come si può dire, alla l'irruenza, ci ha messo anche tanta testa e il campionato insomma se l'ha vinto meritatamente. Direi che adesso ultimamente le moto erano abbastanza livellate, diciamo. Sì, non si poteva più dire che la Honda fosse inferiore alla Yamaha nella seconda parte della stagione. C'è qualcosa che può cambiare in fretta gli equilibri? Mi porto anche all'anno prossimo con Lorenzo che andrà in Ducati, con la Yamaha che cambia coppia. È difficile dire adesso perché dipende durante l'inverno chi lavorerà meglio. Non so, dalla Ducati alla Yamaha, alla Honda, alla Suzuki, alla Aprilia. Cioè dipende chi lavorerà meglio e darà al pilota la miglior moto, quindi per il momento è un po' presto però io credo sempre che sia Yamaha che Honda saranno sempre quelli da battere, perché sono due grandi case con grande esperienza. Anche la Suzuki sta facendo grandi cose, molto, sì. La Ducati sta migliorando anno dopo anno, quindi speriamo che anche la Ducati italiana riesca a fare qualcosa di buono. Sì, Giacomo, ha sbagliato qualcosa Valentino Rossi questa oggi, stagione? E aggiungo, ha detto la verità è che non sono mai stato in corsa per questo mondiale. Come, scusa, non ho capito. E, okay? ha detto anche la verità è che non sono mai stato in corsa per questo mondiale. Rossi lo ha detto. Oggi. Io ti ho chiesto se secondo te in questo mondiale ha sbagliato qualcosa, se sì, che cosa? Sai, è sbagliato, non si può dare la colpa, nel senso che per vincere devi andare al 100% o forse di più. Quindi la scivolata ci sta. Marquez è caduto tanto in prova e non è mai caduto in gara. Valentino purtroppo non è mai caduto ed è caduto 3 volte in gara. La caduta ci sta, insomma, quando lotti e sei al limite e lotti per il campionato del mondo, purtroppo può succedere. Marquez è stato forse anche più fortunato, a parte la bravura, perché non togliamo niente alla sua bravura, è caduto tanto in prova e mai in gara. Valentino è caduto mai in prova ed è caduto 3 volte in gara, sì. Però insomma non puoi incolpare, quando vai al massimo, quando cerchi la vittoria, purtroppo succede anche questo. Sì, 3 cadute più un ritiro per noi alla moto sono 4 zeri che nessuno che lotta, certo, per il mondiale, certo, si può permettere, certo. Grazie a Giacomo Agostini. Ciao Giacomo. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie a Giacomo Agostini. C'è Ausilio che sta parlando, i microfoni di Mediaset Premium, ma lo prendiamo dopo. Prima del traffico, Andrea da Padova. Andrea? Pronto? Eccoci. Pronto? Dai, sì. Buonasera, volevo chiedervi se a voi pare logico e serio che un ragazzo di 23 anni che ha da 5 anni al massimo che gioca ad alto livello in Serie A senta la necessità di scrivere un'autobiografia. Io purtroppo ho 51 anni e da Rivera in poi ho visto tutti i più grandi campioni. I più grandi campioni, forse no, Rivera penso non abbia neanche scritto un'autobiografia, ma i più grandi campioni l'autobiografia l'hanno scritta alla fine della carriera. Ha scritta anche Rivera qualche mese fa. Ecco, l'ha scritta anche Rivera, perfetto, ma l'ha scritta a 70 anni di... ma quello che chiedo io è se un ragazzo di 23 anni senta questa necessità, e mi chiedo, non l'ho ovviamente letta, cosa di importante ci possa essere in 4-5 anni di carriera, uno che non è neanche titolare nella nazionale argentina, visto che sta Higuain, Messi, ce n'è tanti, sì, davanti. Io molte autobiografie me le risparmierei. Io credo che comunque la questione grano possa non essere secondaria. Ma no, ma lui scrive quello che vuole, però evidentemente dentro quel libro ci sono cose inopportune per l'ambiente nel quale lavora. Questo è certo. E questo io credo sia la colpa di Icardi. Poi l'Inter non gli deve togliere la fascia per dare ragione agli ultras. Però ragionare su un capitano che ha passato l'estate a trattare, a mandare la moglie e a gente a trattare con altri club, facendo finta di niente, e poi piazza sto casino qui, già in un momento difficile, io credo che questo sia un tema su cui si può ragionare. 800 24 00 24, il traffico, poi parliamo anche di ciclismo. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Convocati. Si va verso la volata, intanto è stato ripreso Leiser alla volata, parte Rizzolo, parte anche Bonel con Alexander Kristoff, Sagan. Kristoff, e poi spunta Sagan alla volata con Peter Sagan. Doppietta di Peter Sagan che va a bissare il successo dell'anno scorso a Richmond. Questa la volata che ha regalato a Peter Sagan il secondo titolo mondiale consecutivo oggi nel deserto del Qatar. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Pier. È davvero una spanna sopra tutti in questo momento? Guarda, mai maglia di campione nel mondo poteva andare al corridore più rappresentativo del ciclismo in questo momento. E a tutti gli effetti, le classifiche lo dicono chiaramente. Prima di questo mondiale era il numero uno del World Tour, che è, diciamo, la Champions League del ciclismo, la graduatoria, il ranking mondiale del ciclismo. Lui è stato il più costante, più regolare, ha cominciato a vincere a gennaio e ha vinto fino all'altro ieri. aveva vinto qualche settimana fa in Bretagna anche il primo titolo di campione europeo, titolo che peraltro quindi in maglia bianca stellata che non potrà vestire, che nasconderà sotto quella iridata. Ha vinto 14 corse, è stato regolare, costante, ha dato spettacolo, ha vinto prestato al Tour, ha vinto la quinta maglia verde della classifica a punti consecutiva al Tour de France, ha vinto un Giro delle Semplicemente Piante, il migliore, semplicemente il migliore nelle corse di un giorno. Diverte, spiazza e prende in giro. È un corridore che ha tutto per poter far bene anche nel MotoGP. In più posso aggiungere, ha sfatato quest'anno anche la diceria secondo la quale quando vesti la maglia di campione del mondo la stagione va così così. Quest'anno è stata la miglior stagione di Peter Sagan. Bravo, quindi Carlo. Anche questa finisce in archivio. Esattamente così, generalmente così per chi non è proprio avvezzo di ciclismo, il campione del mondo in carica l'anno successivo con questa maglia va così così, va un po' ne ha di ogni, o si fa male o non azzecca mai il momento giusto per poter portare a casa una grande vittoria, gira veramente male. Così è andata grosso modo per tantissimi campioni del mondo. Peter Sagan invece forse è arrivato, come, Peter Sagan. Come giustamente ricordato tu, intanto ricordiamo che questo ragazzo ha 26 anni, ha vinto quasi 100 vittorie. Per il ciclismo è un bambino. Tutte pesantissime, è veramente, sta facendo grandissima la Slovacchia, che oggi per una volta dobbiamo dire grande è stata anche la Slovacchia, perché correvano in tre. Juraj, il fratello di Sagan, e un suo altro compagno di nazionale, e sono arrivati tutti e tre nei 27 che si sono poi giocati la volata finale. Benino anche l'Italia. Ecco, che voto, comunque, che voto dai all'Italia? Appunto, quello che volevo chiederti anch'io. Descrizione e voto della corsa dell'Italia. Io devo dire che allora l'Italia divide in due. La prima fase, 5 per corridori del tipo Daniel Oss, Manuel Quintiato, Matteo Trentin, che sono stati tagliati fuori troppo presto. Però l'Italia si merita un 7,5 perché ha ottenuto il massimo, forse proprio ha visto come è arrivato Giacomo Nizzolo, che è arrivato quinto, poteva ottenere il quarto posto, cioè mettere la ruota davanti a Matthews, questo australiano, quindi il quarto posto era veramente il massimo. Davanti abbiamo tre campioni del mondo, oggi abbiamo un ordine d'arrivo veramente di primo ordine. No? Sì, il che Pier sfata anche il mondiali, fatto che il mondiale nel deserto non fosse ciclismo. Beh, in questo in parte è vero, dai, correre, sì, correre però, in quel modo. Però poi sì, una gara, no, però, che laurea tre campioni, dai, così. Va bene, però correre in quel modo sono condizioni che allora dovrebbero farci riflettere anche su quello che capiterà ai fantomatici mondiali del Qatar. Va bene che per il denaro vale tutto, eh. Ha ragione Carlo, perché diciamo, poi alla fine il campionato mondiale è stato anche meno noioso del mondiale di Madrid, per dire, vinto da Tombone, no? Quello è stato un mondiale molto più noioso di questo, perché i primi 150 km sono stati imprevedibili, perché si sapeva che il vento avrebbe creato grossi problemi, e difatti il Belgio ha scatenato la battaglia e il gruppo è esploso. Però è una pubblicità un po' negativa, in ogni caso correre a quelle temperature non è salutare per nessuno, quindi sì, cioè, se vogliamo veramente più che altro correre senza pubblico, quella è stata un'immagine davvero brutta. Poi il valore tecnico della gara, credo che insomma alla fine Lauri, e l'abbiamo detto, il migliore di tutti, campione del mondo in una volata con i migliori, però il tema è aperto, so che ci tornerete. Grazie Pier Augusto. Ciao Pier. Grazie a voi. Grazie, ciao, Pier Augusto Stagi, in questa domenica dei campioni del mondo. Desidero ringraziare molto, sì, gli italiani in ascolto. Oggi depositerò la mia consueta corona di fiori, unica cosa che faccio da Presidente della Repubblica. Vabbè, adesso non al cospetto giù dei nostri campioni del ciclismo, sì, e del motociclismo. Ma cosa lottato, importa? Sì. Viva l'Italia! Sì. Ma non sono campioni, però campioni del mondo. Ha vinto uno spagnolo questa nella MotoGP, splendida affermazione, e ha vinto internazionale uno slovacco nel ciclismo, che porta alto il nostro tricolore. Non è così, non è così. Ringrazio veramente tutti gli italiani che ci seguono nel mondo. Lanci GR, suona un po' male. Lanci GR 800 24 00 24. Desidero ringraziare chiunque in questo momento lancerà il GR. C'è il GR. Viva l'Italia. tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Io oh, mi fate fumare una sigaretta? Dai, mezza sigaretta. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi. In mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Vi aspettavate tempi di inserimento più rapidi per De Boer? Ma no, sai, sono 8 partite con quella di oggi. Abbiamo fatto tante cose buone e tante cose magari che devono essere migliorate e sono migliorabili. Va analizzata la partita una alla volta. Quella di oggi, ripeto, è una partita che non si può discutere dal punto di vista dell'approccio, della mentalità, dell'idea di gioco. Cioè, io ho visto, forse magari ho visto una partita sbagliata io, però nel primo tempo ho visto una buonissima Inter. Ma siamo delusi, intanto ripeto, a caldo non mi piace parlare di questa cosa, ci siamo presi il tempo di valutare bene, io non è che compro il libro di Icardi e vedo cosa ha scritto Icardi, sono concentrato su altre cose, è normale che ho saputo tutto quello che insomma, è stato scritto, ci sono state delle situazioni che non sono piaciute a noi come non sono piaciuti ai tifosi, direi giustamente. Domani, ripeto, avremo il tempo di valutare insieme anche a lui, perché è giusto comunque... E il ragazzo insomma si prenda le proprie responsabilità, ne venga a parlare in società con noi e poi prenderemo sicuramente una decisione. Siamo presenti, sì. E sul pezzo, non pensiate mica che siamo qui. Io sono incazzato con la partita, oltre a tutto quello che è successo con Icardi, soprattutto perché abbiamo buttato via una partita che, soprattutto col primo tempo, doveva essere gestita in un altro modo. Presente sul pezzo, questo è il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, anche un po' in ritardo, sul pezzo. Io trovo inconcepibile che un atleta, un dipendente, perché di fatto lo è, di una società possa, mentre lavora e gioca per questa società, continuare a creare problemi ambientali come sta facendo, io credo con pervicacia, da qualche mese a questa parte Icardi, dalle trattative di Vandanara mentre lui era in ritiro, già in una situazione ambientale, sì, difficile. Certo. A questa storia del libro. Ciao Pier. Ciao Pierluigi. Pierluigi? Luigi Pardo. No, non c'è. Signor Pardo è desiderato al telefono. Non so cosa mi chiede questa bella ragazza, però è molto bella, per cui non posso. Ah, una roba per il fattacasso di tuo fratello, guarda, Radio 24, c'è un attimo di priorità. non sono molto d'accordo, Capuas, nel senso, sì, che secondo me... Allora, Icardi ha fatto un'autobiografia, chiaramente quel passaggio lì nessuno di noi sa esattamente come sia andato, cioè non sappiamo se, tanto per essere chiari, la realtà espressa tra pagina 62 e pagina 64 sia veritiera o meno. Lui ha fatto forse un po' il bulletto, cioè ha fatto un po' il figo dicendo che aveva difeso quel bambino e che aveva rispetto tutta la curva e che non gliene frega niente. Quindi, beh, difficile anche inventarsene una così. No, ma noi ci crediamo. Ti dico la verità, mi sembra che oggi il comportamento complessivo sia stato un comportamento abbastanza autolesionista, nel senso che oggi comunque è una partita importante, Icardi non è stato sicuramente messo nelle condizioni di fare una buona partita, ma è colpa sua chiaramente, non è che il rigore l'ha sbagliato la curva nord, ci mancherebbe. No, ma guarda, ma sgombero subito il campo, né io né Pierluigi Pardo né Carlo Genta, poi sapete che discutiamo spesso di questi temi, stiamo parlando del fatto che una curva possa decidere o meno se va tolta la fascia a un giocatore, chiaro? Che un giocatore in un'epoca in cui vengono controllati i tweet, viene c'è un regolamento per tutti, c'è anche dentro l'Inter, l'ha detto Ausilio, non si può parlare delle questioni tecniche se non dentro le sedi deputate. Insomma, io trovo surreale che quell'episodio, che sarà anche vero, venga raccontato oggi, sì, creando però, evidentemente, dei problemi all'interno di un ambiente. Anche Pierluigi di autobiografie ne ha scritte, da Cassano a Eto'o ad aggiungere altre, quelle che verranno, vengono fatte anche per essere vendute, vengono fatte anche per queste cose forti, eccetera. Detto questo, Icardi se l'è presa con ha litigato con alcuni esponenti della curva, che è gente alla quale non bisogna pecoronarsi. Poi torno a ripetere, quella storia del faccio venire 100 criminali dall'Argentina è una stronzata pazzesca. E quella era da evitare nella maniera più assoluta. La barriera era da evitare. In generale, io penso anche che ci sia un problema sull'autobiografia a 20 anni, che l'autobiografia la scrivi dopo. L'autobiografia la scrivi dopo un pezzetto un po' lungo di carriera. È difficile parlare nel presente, c'è una differenza fra cronaca e storia che è abbastanza sì, Pierluigi, però qui stiamo parlando anche di business, come direbbe Marisoni, o come direbbe Verinazzo, di business e marketing. Però mi avete fatto venire in mente, costruendo un personaggio, sapere quanti soldi può fare un calciatore con un'autobiografia. No, cioè, l'autobiografia ci paga le mance, con tutto il rispetto, eh. No, per carità, ci paga le mance al ristorante, sì, un però non è che l'ha fatta però, così perché c'è voglia, però fa girare il volano della sua, ma no. Fa personaggio. Icardi adesso... è un atleta che lavora molto sulla sua immagine di personaggio in mille modi, legittimamente, però insomma probabilmente ci sono momenti in cui questo suo lavoro va in contrasto con quello che sarebbe il bene dell'ambiente, cioè, per il quale lavora. Questa è la mia opinione, poi ripeto, l'Inter non deve togliergli la fascia, chiaro? Non deve, per darla vinta agli ultras. Però ragioniamo su questa cosa. Facciamo un attimo i conti in tasca. Allora, l'autobiografia, per quanto potrà vendere? 50.000 copie? Quante ne hai vendute con Cassano? 100.000, okay. Più o meno, 100.000 copie. Però insomma, i libri medi, cioè un libro che vende 50-60.000 copie già fa un buon risultato. Secondo me venderà 50.000, ma diciamo anche che ne vende 100.000 e sarebbe un risultato incredibile. Se vende 100.000 copie, adesso non so quale sia il prezzo, 100.000 per 15 fa 1,5 milioni, anche ammesso che abbia preso un 12%. Stiamo parlando non 100-200 mila, ma non è neanche, ti ripeto, secondo me non è neanche questione di mero quattrino, è questione anche di un lavoro sull'immagine, per molti aspetti lavoro discutibile. Icardi lo sta facendo, no? E io leggo questa biografia, avete ragione tutti, estremamente prematura, surreale a 23 anni, cosa può raccontare uno di 23 anni? Però rientra in questo progetto mediatico. Esatto. A proposito, siccome Pier l'ha scritta l'autobiografia, mi interessa ad esempio quella di Cassano. Voi quando l'avete scritta, dove era Antonio? Come club? Era la Samp e stava giocando e... Sì, e ci avete messo dentro tutto sulla Samp, tutto, oppure è stata un po' più rivolta al passato? Lì c'era del passato da raccontare. Guarda, c'era stato un solo, io penso che il successo di quel libro, adesso non voglio fare la vendita a distanza di anni, anche perché non preghiere in tasca. È la battuta delle donne, dai, delle 700 donne, quante erano? Lì, la forza di quel libro lì era che era un libro vero, cioè che era un libro che io veramente ho dovuto semplicemente sbobinare. Poi certamente alcune battute di Cassano sono battute, no? Però era, diciamo che era verosimile, nel senso che erano le cose che lui diceva ed erano quelle, non è che c'era... mai, e parlava di tutto, di una sola cosa non aveva voluto parlare, tanto tempo, che era del padre, aveva chiesto di non parlare di quella cosa. Per il resto veramente raccontava tutto in quel momento lì, il libro della famosa riappacificazione con Capello, cioè, di tante cose che non erano proprio scontate. Però ripeto, il libro, se almeno puoi fare un certo punto della carriera, farlo a 22-23 anni, è prematuro, dai, è prematuro. 800-24-00-24, Antonio da Bari. Antonio, buonasera. Volevo fare un intervento sul Milan. Vai. Volevo chiedere se tutti gli addetti ai lavori che quest'estate davano per il Milan spacciato, vedevano tutto grigio e nero, forse è l'unica squadra che ha un progetto serio, italiano e giovane. Volevo sapere se si sono ricreduti e voglio sapere cosa ne pensa Pardo. Pierre. Buonasera e forza Milan. Buonasera, che Montella sta lavorando molto bene. Sinceramente ha fatto un mercato questa estate abbastanza nullo, diciamocelo apertamente. Non è che adesso, siccome ha vinto un paio di partite, questa sera potrebbe issarsi al secondo posto se vincesse a Verona, adesso cambiamo. Quello che è da sottolineare, secondo me apprezzabile fino all'inizio della stagione, è la ricerca da parte di Montella del gioco. Questa si è vista sempre. Si è vista in tutte le circostanze, qualche volta andava bene e qualche volta andava meno bene, però questo è apprezzabile, è ammirevole, secondo me sta facendo la differenza. Io non credo che il Milan sia l'esempio, voglio fermare gli entusiasmi. Io penso che il Milan sia da Europa League, però penso che sia serenamente da Europa League quest'anno. Io credo che possa proprio serenamente prendersi un quarto o quinto posto in classifica senza grandi problemi. Sì, Montella ha mille meriti. Abbiamo il traffico 800-24-00-24, poi discutiamo anche del triangolo di quelle che forse corrono per lo scudetto o forse no. Insomma, la Juve ha già messo parecchia distanza tra sé, la Roma e il Napoli. Parliamo anche di quello che abbiamo visto ieri in Napoli-Roma. Traffico. Tutti convocati. I love this game. Convocati. Oh, noi penso che pure il mister non abbiamo mai parlato di scudetto, è stato sempre fatto dai giornali e tutto. Noi abbiamo sempre dato il massimo in campo per vincere le partite. Ora abbiamo ricevuto queste due sconfitte, non siamo da scudetto. Anche dei dubbi, delle incertezze, non ce le possiamo nascondere, però è una svolta questa partita. Ma i dubbi sono vostri sempre, le incertezze sono sempre vostre, perché a Trigoria non va mai bene niente. Alcune volte siamo stati al di sotto del nostro massimo e quelle sono le cose che ora hanno creato la differenza. Ci sarà da vedere se la Juventus continua a correre come sta facendo, se anche ha un obiettivo, però quella ha preso vantaggio e poi si sposta sempre, rincorrerlo non è facile. In fuga? Ma in fuga no, però quanti punti abbiamo? 21 non bastano per vincere il campionato neanche per salvarsi, quindi mi servono tantissimi. Però pensando alle rivali in campionato, in questo momento l'anti-Juve e la Roma? La Roma perché ha meno 5 da noi, prima di oggi era il Napoli, però il Napoli non è assolutamente dato fuori, l'Inter è lo stesso, il campionato è lungo. Insomma, Allegri dice che non è una fuga, Spalletti dice che solo fuori da Trigoria c'erano dei dubbi sulla Roma, Insigne, l'avete sentito, dice che il Napoli non è da scudetto. Alberto Zaccheroni, buon pomeriggio, anzi buonasera mister. Buonasera. Alberto Zaccheroni cosa dice di questo sabato? Io dico che vabbè, la Juventus rimane sempre sopra. L'ho detto dall'inizio dell'anno, che lo ripeto, ma del resto come lo scorso anno, che lo può perdere solamente lei, ha un organico decisamente come organico, dopo prendiamo gli 11, si può discutere su tutto, ma se guardiamo l'organico c'è un abisso tra la Juventus e tutte le altre. Organico di profondità, detto di qualità. Questo, sì, detto questo, ma anche di mentalità acquisita, hanno una consapevolezza nazionale che non l'hanno ancora trasferita in campo esterno, quindi all'estero, ma è un po', io per volte faccio il raffronto un po' come Ibrahimovic, no? La differenza tra il campionato e quando invece va a giocare con la nazionale non ha quella certezza di essere decisamente superiore a tutti, mentre il campionato sa che fa la differenza perché ha vinto il campionato ovunque. la Juventus è in queste condizioni, deve acquisire quella consapevolezza internazionale. Le altre, io vedo due squadre che possono cercare di approfittare qualora gli dovesse capitare quello che gli è capitato lo scorso anno. Perché lo scorso anno, se invece di esserci in Inter e Fiorentina, che non erano ancora quadrate, ci fosse stato il Napoli o la Roma in quella posizione classifica, non so se la Juventus avrebbe avuto la forza di ricompattarsi, perché lì quanti erano su 11 punti sotto? Sì, aveva una dozzina di punti dalla testa della classifica, in quel momento era la Fiorentina. Partita d'handicap. Sì, assolutamente. Però posso dire una cosa, mister, a parte il fatto che mi associo alle migliaia di complimenti che ha avuto come commentatore tecnico della Nazionale, soltanto questo, poi dico, ieri, confesso la verità che è una verità mia personale, ho guardato Napoli e Roma come la partita dello scudetto bis, sì, perché non mi sembra, esatto, lo spareggio delle altre non mi sembra facciano nemmeno lo stesso campionato, non dico come il Paris Saint Germain in Francia, come il Bayern Monaco in Germania, o Real Madrid, Atletico e Barcellona in Spagna, però insomma siamo a quelli, il nostro campionato è a quei livelli lì, Pierluigi Pardo, a me il Napoli ieri ha deluso, se devo essere sincero. Molto, a me ha deluso moltissimo. Io insomma non è che sono schizofrenico, pensavo e penso ancora che il Napoli sia la seconda forza del campionato. Ieri ha dimostrato di essere molto in ritardo in questo momento, di essere molto meno maturo rispetto alla Roma. La partita l'ha vinta Spalletti in queste settimane, lavorando su Dzeko, che è diventato un attaccante con nettamente più qualità che difetti. Beh, ma Pierluigi, ma posso dirti, ma Dzeko è tornato ad essere Dzeko, cioè quello che era sorprendente era l'anno scorso, in cui è stato triturato da tutti i punti di vista. Anche due anni fa. Secondo me è un buon giocatore, non è un fuoriclasse, ma è, ed è sempre stato un buon giocatore. Ieri il Roma Inter e Napoli Roma è stato un fuoriclasse, ragazzi. Cioè, ieri ha fatto una partita incredibile, Roma Inter ha fatto una partita incredibile. Poi secondo me ha sempre comunque delle qualità molto chiare e anche dei difetti molto chiari. Cioè non sarà mai, secondo me, l'attaccante più cinico del mondo sotto porta. Però in compenso ha una generosità e una intelligenza e una capacità di sacrificarsi per i compagni che lo rendono sempre molto utile. Se riesce ad accoppiare queste doti con un po' di cattiveria agonistica in più, di caparbietà nei contrasti e di freddezza sotto porta come ha fatto in queste ultime due partite, diventa un attaccante completo veramente eccezionale. Sì. E quindi secondo me Spalletti ha fatto un grande lavoro. Napoli mi ha deluso molto, ma proprio come condizione. A parte mi sembra vogliamo dirlo Pier, che Spalletti l'aveva preparata meglio di Sarri. Poi voglio sapere anche cosa ne pensa Zaccheroni, Pier. Sì, ma proprio che la Roma in questo momento fa meglio del Napoli, questa è la cosa. Poi adesso sono curioso di andare a vedere che succede mercoledì col Besiktas, perché magari quella sarà una partita diversa. Però insomma il Napoli in questo momento, in partite che si complicano, fa tanta fatica. Ha fatto benissimo col Benfica, perché è stata una partita perfetta, perché si è messa subito bene, ha giocato un gran calcio, ma oggi mi sembra in difficoltà. E alcuni interpreti, Cagliecol mi sembra meno ispirato rispetto al solito, Giorginio mi sembra da parecchio, da Genoa a Napoli in poi mi sembra un giocatore in ritardo di condizione. Insigne è la controfigura dell'anno scorso. Insigne è la controfigura, poi forse c'entra anche il poco turnover che sta facendo il Napoli, forse c'entra anche una certa incapacità di Sarri di cambiare pelle a questa squadra, ma insomma è una battuta d'arresto. Questo è, Zaccheroni, un tema che si può aprire, cioè se davvero chi critica Sarri qualche fondo di ragione ce l'ha. Guardi, io onestamente, senza nulla togliere ai meriti della Roma, che ha fatto una grandissima partita, ma l'aveva già fatta anche poco prima con l'Inter, se gli dai campo è una squadra che quando riesce a distendersi ti fa decisamente male. Ma quello che mi ha sorpreso maggiormente è l'approccio alla partita del Napoli, perché il Napoli ci ha abituati nel finire di stagione lo scorso anno, il giorno di ritorno lo scorso anno e nella prima parte di quest'anno, sia in campionato che in Coppa, ad essere la macchina perfetta, con una facilità di gioco, con una disvoltura tale da mettere soggezione a tutti gli avversari. Ieri sera non è stato così. Io non so se è stato l'infortunio del centravanti, che gli ha tolto perché la finalizzazione ha tolto punti di riferimento. Certo, abituati con Higuain era importantissimo partire con uno che ti dimostra subito di essere all'altezza del precedente, no? Che sai che su di lui ci puoi puntare, ci puoi contare. E ieri era un'altra squadra, ma già dalle battute iniziali ha commesso degli errori che solitamente non commette, e la manovra non era altrettanto fluida come in passato, come nelle partite precedenti. Adesso c'è stata la sosta, però quanto sono stati fermi 15 giorni. Ma poi la sosta c'è per voglio tutti. Dire il la Napoli sosta c'è è una tutti. Macchina è una squadra che mi ha entusiasmato per questa capacità di riproporsi dalla scorsa stagione a questa stagione, perdendo Guaid, giocando praticamente a memoria, con un entusiasmo totale, generale, che coinvolge chi gioca di più e chi coinvolge di meno. L'abbiamo osannato fino alla vigilia della partita. Ma basta il fatto che è venuto meno Milik a spiegare questa cosa, che Gabbiadini forse non è l'ideale in quel ruolo lì? Io penso che lì sia successo qualcosa nella testa della squadra questa settimana, perché io onestamente ho visto un'altra squadra. Allora, se mi chiedete della squadra di ieri, dico una cosa, se mi chiedete del Napoli, ne dico un'altra. Perché il Napoli, cioè, non posso cambiare la mia opinione su Napoli per una partita. Sì, diventa difficile, molto. Si rischia di essere in quello. Ma io sono d'accordo, anche a me piace. Per me la seconda forza del campionato, mi sembra, per profondità della rosa, mi sembra la seconda squadra, mi sembra meglio della Roma. La Roma è tanta roba. Non a caso ho detto che lo scorso anno, se quando Juventus ha perso quegli 11, è andato sotto gli 11, se invece dell'Inter e della Fiorentina in quel momento c'erano o la Roma, perché anche l'anno scorso era una grande squadra, perché dopo non so se i giocatori della Juventus riuscivano a mantenere quella tranquillità per recuperare, no? Per compattare, perché se quelli davanti camminano prima o poi rischi di cedere. Quindi io dico Juventus sempre, per sintetizzare, Juventus sempre, lo può buttare via solo lei, e Roma e Napoli secondo me siamo lì, perché non c'è ancora, sono due allenatori che hanno, che sulla squadra hanno influenza, hanno carisma, hanno personalità, hanno idee, sanno leggere bene il momento in cui utilizzare determinati uomini o determinate soluzioni. Due persone intelligenti. Io confido che loro facciano un ottimo campionato entrambe. Ma adesso vedremo Sarri la prova già mercoledì dalla Coppa. Le altre sono nettamente dietro. Oggi abbiamo visto l'Inter che si è fatta un po' male da sole. Abbiamo la pausa, grazie mister. Grazie mister. Prego. Ciao Zac. Grazie Alberto Zaccheroni. Riusciamo a fare Marco dalla provincia di Foggia. Marco. Pronto? Eccoci. Sono Marco da Mondragone, però non Foggia. Va bene, da Mondragone. No, è importante. Ci avevano scritto provincia di Foggia. Prego. Ok. Saluto Pierluigi, un grande. Pier. C'è? Okay. Ciao. Complimenti, è migliorata la trasmissione rispetto all'anno scorso. Bene. È meno fica e più argomentazione, secondo me. Quindi è un... Si lavora per quello, Invece l'anno scorso sembrava che lavorava per il contrario. Sono le stagioni, sono i cicli, capisci Marco? No, ma anche perché pure quest'anno c'è quella famosa cosa di cui parlavi. C'era l'anno scorso, però ci sono anche i calciatori, quindi vabbè, comunque. Volevo quella cosa parlare... schifo non ci fa, non è che adesso. Pronto, mi senti? Sì, prego, dai Marco. Volevo parlare della questione Cardi. Certo. Detto che magari secondo me è stato un poco ingenuo a dire queste cose, però detto che è stato solo ingenuo, perché ora dobbiamo finire, però ogni qualvolta qualcuno ha il coraggio di scagliarsi contro queste tifoserie organizzate, tenute su da personaggi che sappiamo tutti che tipo di personaggi sono. Ecco, qualcuno dice timidamente questo, quell'altro, però nessuno osa dire ha fatto bene. Questo è un grande giocatore, secondo me, professionalmente parlando, e nessuno lo sottolinea. Ora avrà detto un'ingenuità riguardo l'episodio di Sassuolo, ma basta, si dovrebbe porre l'accento sul fatto che le tifoserie organizzate ogni qualvolta cercano di mettere il becco in situazioni che non gli competono, anziché congratularsi con un giocatore che quest'anno, da quest'anno, sta dimostrando una personalità che fino all'anno scorso non aveva ancora avuto. Sì, ma Marco, ma sulle curve abbiamo parlato. Sulle curve abbiamo parlato. È un ragazzo che è impeccabile dal punto di vista professionale. Questo è vero. E quindi che cosa vogliamo dire? Tranne quando fa comunicazione, che è un aspetto però della professione. Io è questo che sostengo. Poi, poi sul resto è una settimana che lo difendiamo sulla questione dell'Argentina. Grazie comunque Marco, sì, grazie. Sì, sì. Mi ha piaciuto. Oh, abbiamo De Boer. Sì, mi ha piaciuto filosofia de Curva Nord. Si dice. Che ha sostenuto il nostro giocatore. No, ma non l'ha sostenuto, l'ha fischiato. Voglio sempre che tifosi sono vicini a squadra e giocatore. Sì, però non sono stati tanto vicini ai campi. Giocatore. Adesso è meglio se stanno lontani in questo momento. Filosofie giusti, incitare il giocatore, ma non l'hanno incitato. Curvi Nord e molta fiducia in nostro giocatore e voglio sempre questo atteggiamento, giusta filosofia. Tifosi Curva Nord, capito? Torniamo subito. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Convocati. Andiamo avanti con grande umiltà, perché io, che sono uno che ha sempre vinto nella vita, pensate se non mi incazzo e non mi sta stretto il Napoli. Mi sta strettissimo, non stretto. Però faccio pippa, sto zitto, sto al mio posto, gioco in un campionato o in un contesto dove dovrei contestare tutto e dove non sono d'accordo su niente. Mondo del passato, pazienza. Speriamo che Napoli finalmente possa, fra 10 anni, essere dove io ambisco a essere. Ma non il problema di dire fra 10 anni vinco lo scudetto speriamo di vincerlo prima. La Juventus c'ha 380 milioni di fatturato? Datemene 100 a me in più di quelli che fatturo io, poi vediamo se non vinco pure io. Quando tu diventi in un contesto una stella perché segni tanti gol, crei il disagio anche nei tuoi compagni. Però non è bello e piacevole quando tu a un certo punto ogni tanto con la mano fai così perché qualcuno ha sbagliato un passaggio o ti giri violentemente, perché il calcio è un gioco di squadra. Questo ciclone De Laurentiis prima di Napoli-Roma, poi ieri letto sulla Gazzetta dello Sport, ha incontrato i giornalisti e ha rincarato la dose, li ha accusati di non difendere il Napoli, insomma nervi abbastanza tesi. C'è Maurizio De Giovanni che saluto, buonasera Maurizio. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ma come la vive un napoletano oggi? Quella di ieri è stata la prima partita persa in casa in campionato da Sarri. Ma c'è un po' il sospetto che sia stata una sorta di fine dell'illusione, non lo so. All'ottava giornata sarebbe terribile se ci fossero le fini dell'illusione, ma sarebbe terribile, io non credo soltanto per il Napoli e per il tifosi del Napoli, sarebbe terribile per tutto il campionato italiano. Il campionato italiano, e lo abbiamo detto credo proprio ai vostri microfoni all'inizio, dopo la campagna acquisti, dopo la fine della campagna acquisti, è un campionato a forte rischio di monologo. Un campionato molto francesizzato, per dir così, perché rinforzarsi togliendo gli uomini migliori alle principali antagoniste, fa sì che la squadra che riesce a farlo, che ha la forza economica e la condizione per farlo, chiaramente mette una grossa ipoteca sul fatto di fare un monologo. La Juventus ha oggi come oggi 7 punti di vantaggio sul Napoli, 6 punti, 5 punti di vantaggio sulla Roma all'ottava giornata di campionato, avendo già sostenuto diversi scontri diretti, diverse partite difficili. E che la Juventus sia la maggiormente accreditata alla vittoria finale non c'è dubbio. Ma è successo qualcosa nella testa? Cioè, lo diceva prima Zaccheroni, questa settimana lui ha il sospetto, ma in tanti, visto il Napoli ieri, hanno avuto il sospetto, Pier, che qualcosa sia scattato all'inverso nella testa. Non solo nella testa, ma nelle dinamiche di tutto l'ambiente, che lega tifosi, giocatori, testa dei giocatori, caratteristiche della squadra, assenza di Milik... Gabbiadini che non riesce a mantenere quanto promesso l'anno scorso. Molto banalmente c'era un giocatore che faceva un gol a partita, copriva tutto. Pier. Esatto. Sì, beh, io penso che Napoli-Benfica sia stata una partita pazzesca, e il fatto che il Napoli dopo quella partita pazzesca abbia perso 2 partite su 2 è abbastanza indicativo, è abbastanza sorprendente, non l'avrei mai pensato, e in qualche modo chiama anche per una serie di problemi che possono essere anche di impreparazione, di disabitudine alle pressioni. È un po' il problema che il Napoli ha avuto l'anno scorso quando in testa alla classifica si buttò via Bologna, ricorderete, no? Quella sconfitta sorprendente. Su questo la squadra sembra sicuramente meno matura rispetto ad altre. Io ieri ho commentato la Juve che ha giocato, diciamo, fra il male e il molto male in certi momenti. Però con tutto il turnover del mondo alla fine l'ha portata a casa senza troppi problemi e senza troppi affanni. Con due colpi di bacchetta magica, soprattutto uno di un campione. La differenza è sempre quella, la differenza poi alla fine secondo me è di qualità. Cioè questa roba che ci sembra magica, che ci sembra non è un discorso di fato, di destino, è che la Juve è più forte delle altre. E la forza maggiore la vedi nella solidità che ha nei momenti in cui è poco brillante e nella anche qualità di tirar fuori comunque sempre delle soluzioni. Sì. Però anche questa cosa l'abbiamo sentito De Laurentiis: datemi 100 milioni in più di fatturato. Io comincio a trovarla un po' stucchevole. Non so cosa pensa Maurizio Di Giovanni. Noi possiamo annoiarci quanto vogliamo a sentire sempre gli stessi discorsi, non c'è dubbio. Ma un motivo per cui un giocatore costa 70, 80, 70, 90 milioni di euro e un altro 15, 18, 20, cioè non è che qui siamo più furbi degli altri che troviamo a 15 milioni un giocatore che ha la stessa resa di uno che ne costa 90. Cioè se noi possiamo permetterci una squadra con all'interno gente più di uno, tre, quattro persone costantemente in campo, contemporaneamente in campo, in grado di risolvere la partita da soli, è logico che questa squadra avrà meno bisogno di essere sempre in forma, di avere un meccanismo sempre rodato. Il Napoli gioca senza centravanti. Il Napoli ieri ha giocato senza il centravanti. Ieri Dzeko, centravanti della Roma, non è che abbia fatto cose incredibili, ha fatto il centravanti. Quindi c'era quando al centro dell'area, quando Salah ha rubato il pallone, a Koulibaly ha fatto la fesseria e l'ha messa dentro. C'era sul secondo palo quando si è ritrovato a non dover nemmeno saltare, perché era Isai che lo marcava, e anche questa è una cosa abbastanza curiosa. Sì, però io non penso che ieri il Napoli abbia perso perché ha giocato male, obiettivamente male Gabbiadini. No. Il Napoli, ma guarda, il discorso è questo: se tu, non è questione di Gabbiadini, perché Gabbiadini è un ottimo giocatore, ma è un altro ruolo. Se tu prendi un ottimo centrocampista, lo metti in posta, il fatto che questo prenda 5 gol in 20 minuti non è colpa del fatto che è un cattivo calciatore. Il Napoli gioca senza un ruolo che nel meccanismo di Sarri, torniamo al discorso del meccanismo, Sarri ha un meccanismo che per andare bene deve funzionare perfettamente. Nel momento in cui questo meccanismo non riesce a funzionare perché deve rivedere clamorosamente la propria posizione, ieri il Napoli ha giocato senza un centravanti per la prima volta da anni, cioè non c'era, si arrivava a quel punto al limite dell'area mancava lo sbocco tradizionale, non c'era, ma nemmeno la sponda, nemmeno il tirarsi dietro un difensore, nemmeno il liberare lo spazio in area. Sì, però questo è quello che sarà da qui a gennaio, Pier, da qui non se ne esce. La vera preoccupazione è questa, sì. Del Napoli. La provocazione, come dici, Se tu mi chiedi, la vera preoccupazione non è la sconfitta con la Roma, la vera preoccupazione è che francamente nessuno di noi saprebbe al posto di Sarri che soluzione inventare per ovviare a quell'assenza. Dai, Pier. Sul discorso di De Laurentiis, io credo che in fondo questo che abbia ragione, cioè sicuramente 100 milioni di euro di fatturato in più servirebbero al Napoli, sicuramente esiste una grande distanza economica, però lo invito, da imprenditore bravo qual è, a crescere ancora. Per esempio il Napoli ha dei margini di crescita all'estero, nella comunità di napoletani nel mondo, enormi. Il Napoli decide ogni anno di fare una scelta anche giusta, che è quella di farsi i soliti 20 giorni di ritiro a Di Maro e rinuncia dei possibili introiti che potrebbe avere girando il mondo. Credo che dal punto di vista della gestione della società la Juve sia più avanti, cioè sia una società più moderna, più ambiziosa, lo stadio di proprietà certamente è un grandissimo vantaggio. Ecco, io credo che De Laurentiis, che certamente è un grande imprenditore, l'ha dimostrato essenzialmente nel proprio settore di riferimento, ma la sta dimostrando anche nel calcio, che comunque ha preso il Napoli in una situazione drammatica e oggi a questo livello qui, debba continuare a lavorare, e lo farà sicuramente, per rendere la sua società ancora più all'avanguardia, perché quei 100 milioni di fatturato te li dà sicuramente il fatto di vincere le partite, ma te li dà anche il fatto di avere un'immagine internazionale di un certo tipo, di lavorarci sopra, di lavorare del marketing, sì, della comunicazione, come ha fatto la Juventus, che ha nei luci avanti a tutti da questo punto alla di fine vista. Sono discorsi che pesano e sinceramente io penso che Napoli da questo punto di vista debba crescere molto, lo dico con affetto, perché poi insomma diciamo che un Napoli forte e competitivo credo sia un valore assoluto per tutto il calcio italiano, indiscutibilmente è una città troppo importante, troppo grande, troppo appassionata perché sia fuori dalla corsa scudetto in assoluto. E torniamo al famoso Lodo Sarri, col quinto monte in gaggi e con il quinto fatturato della Serie A, insomma Napoli rimane un modello virtuoso anche se ha perso una partita, sì. Che è un po' quello che ha detto De Laurentiis ieri e che aveva detto Sarri un mese fa. Anche se tanti ricordano, insomma, le classifiche finali raramente sono quelle del fatturato. Abbiamo il traffico. Io ringrazio Maurizio De Giovanni, grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie anche Carlo Genta, che ritrovate domani dalle 14. Compie Luigi, ragazzi. Pardo, che invece resta con me. C'è Enzo da Teramo, un minuto di pazienza al traffico. Tutti convocati. Ci impegniamo, parli, grida, smadonni, ci rompi i coglioni, fai. E a noi? Tutti convocati. Chievo, che squadra è? Ma è una squadra ostica, è una squadra molto evoluta a livello tattico, una squadra molto esperta, non li sorprendi, sanno incassare, sanno attendere, sanno prendere i pugni e sanno soprattutto come darli e quando darli, quindi è una squadra estremamente difficile. È una piccola Juve, come piace definirla a me. Questo Montella alla vigilia della trasferta che può regalare il secondo posto al Milan o forse al Chievo. Saluto Franco Ordine, ciao Franco. Eccoci qua, buonasera. Sentiamo prima però Enzo da Teramo che ci aspetta da qualche minuto. Enzo. Ciao, buonasera a tutti. Dai. Un abbraccio particolare a Pardo che fa morire quando fa le cronache della Juventus. Bravissimo, bravo Pardo. Io intervenivo per Icardi, no? Allora, volevo dire solo questo. Posso capire un Franco Baresi, un Tardelli, un Dino Zoff, uno... mettete voi chi volete, che mi fa un libro autobiografico. Gente che ha alzato Coppa Campioni, Coppe UEFA, Intercontinentale, Scudetti, Coppe del Mondo. Cioè, un Icardi a 23 anni non ha vinto niente, no? Quante autobiografie scriverà ancora? Ne farà ancora. Ogni anno vince qualcosina, fa un'autobiografia. L'autobiografia si fa arrivati a una certa età o a una maturazione professionale alta, al punto che uno racconta la sua storia, la sua vita. Vabbè, Enzo, ma l'abbiamo detto, queste sono scelte di marketing, si lavora sul profilo del personaggio, poi se fanno il bene o il male del club per il quale lavori, secondo me passa in secondo ordine, e questa è la colpa di Icardi, che non significa che l'Inter gli debba togliere la fascia per dar ragione agli ultras. Questo è un altro discorso. Franco, ci dici due cose sul Milan di stasera, intanto se vediamo davvero la Padula e Locatelli. Sì, credo di sì, io non sono proprio aggiornato sulle ultimissime, ma credo che ieri le scelte erano queste, credo che stamattina siano state riconfermate. Ma poi se mi concedi tre secondi, volevo aggiungere qualcosa a proposito di Icardi. La vicenda di Icardi però io credo che abbia preso in contropiede un po' tutti, compresa la nostra categoria, perché nessuno si è accorto, nessuno avendo letto il libro, e quindi nessuno accreditava a quel libro un tale valore da perdere un paio d'ore, nessuno, persino il vice direttore della Gazzetta dello Sport che è andato a presentarlo, nessuno si è accorto di questa famosa paginetta numero 53 o 62, 63, 64. Esatto, che conteneva quel popò di bomba a mano che è stata poi evidentemente innescata anche dagli ultra. Io penso questo complessivamente, che qui io devo dire anche l'uscita di Zanetti, che ha prima della partita addirittura preannunciato l'intenzione di degradare Icardi. Io penso che obiettivamente qui hanno perso un po' tutti la bussola oggi. Ma tu da che parte stai però? Io sto dalla parte di Icardi, nel senso che Icardi ha commesso non un errore, ha fatto una cosa che non si può nemmeno parlando con i propri familiari si può dire a soldo un centinaio di killer che vengono qui ad ammazzarvi tutti, quindi figuriamoci se posso essere d'accordo con lui. Non sono d'accordo con la curva che pensa di imporre una punizione e un castigo. Anzi, io credo che il giorno in cui l'Inter dovesse piegarsi a un diktat del genere, secondo me la sua immagine verrebbe marchiata per molto tempo. Posso dire che, che sentendo Ordine ho capito che anche io non sono d'accordo con nessuno, cioè io non sono d'accordo con Icardi, no, veramente, cioè mai come questa volta, non mi piace chiaramente quello che scrive Icardi, che è irricevibile. Non mi piace che sia a quel punto però la curva a esercitare il suo potere, che c'è, che è oggettivo, e che anche io, sai come la penso, no? Io sono contro le generalizzazioni. La curva è anche quella che comunque allo stadio ci va sempre, anche quando le cose vanno male, è anche un luogo di aggregazione che fa solidarietà, cioè non è che per forza è un luogo di potere. Pierluigi, tieni conto di una cosa, che oggi si è verificato questo, e cioè che il resto dello stadio, quindi tutto lo stadio curva, ha difeso Icardi. Ma esatto, infatti questo è stato quindi, meraviglioso, però non mi piace il fatto che la curva... Sapete perché? Perché nessuno sapeva di questa grande stronzata contenuta nel libro, perché nessuno ha letto il libro. Adesso gli abbiamo fatto pubblicità, dai. Però scusa un attimo, a parte che ho fatto pubblicità, ma ribadisco, Franco, sì, poca roba, poca roba. Poi i libri non si diventa ricchi per quello che è il tenore di vita di Icardi. Poi facciamo un libro io e Ordine, ci dai Icardi, ci dai soldi, siamo contenti, ma per quello che è il tenore di vita di Icardi è un paio di partecipazioni televisive in prima serata, può essere quello il range. Quindi la curva fa questa cosa qui e chiaramente mette sul piatto il proprio potere, il proprio peso politico, e poi a quel punto però la società secondo me fa un ulteriore errore, lo dico con rispetto e con affetto per Aria Zanetti, ma secondo me quella presa di posizione così univoca prima del calcio di inizio di una partita così importante è sbagliata, nel senso che secondo me Zanetti doveva dire: qui non è la curva o la tribuna che deve decidere chi prende la fascia da capitano, qui c'è la società che valuterà e vaglierà. Ma non è che io credo che finirà così, no? Icardi resta capitano dell'Inter perché non decide la curva. Però ho l'impressione che i rapporti tra Icardi e l'Inter siano al minimo storico, perché è da 6 mesi che Icardi, lavora affare, per conto suo. Scusate, no, perché guardate che però questo, siamo in fondo, siamo in fondo. No, siamo in fondo, ma in 15 secondi, in tutto questo, con tutti i difetti di Icardi e il fatto che non ha ancora vinto nulla, se l'Inter butta via un patrimonio come quello di Icardi, lo svende così giovane perché ha litigato con alcuni tifosi dopo Sassuolo Inter, secondo me è un fallimento enorme. No, per carità, ma ha litigato anche con la società per un'estate, esponendola a una brutta figura. Quello era già risolto, tant'è vero che la società gli ha fatto il contratto. Per cui qui adesso stiamo tornando. È una polemica retroattiva, come la polemica retroattiva di Ilari di qualche settimana fa. È una polemica retroattiva che ci riporta a un anno fa e ci riporta a una discussione con 20 persone, 40 persone, 15 persone. Allora, se l'Inter perde un patrimonio tecnico come questo, Sbaglia. No? Sbaglia. Mi devo poi fermare perché siamo in chiusura. Non è un leader e lo vende, ma lo vende lei quando vuole lei, al prezzo che vuole lei. Non si fa prendere per il collo da una situazione come questa. Assolutamente. Se non ci fossi un'altra società, andrei dall'Inter coi soldi a prendere i Cardi. Pier, siamo oltre. Ti saluto, a domani. Ciao Pier. Ciao. Saluto anche Franco Ordine. Ciao Franco, grazie. Ciao, buonanotte. Dovevamo parlare del Milan, eh? Ciao Franco. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Andrea Roccabella in regia, il nostro Andro Mercù con le sue mille voci. Torniamo domenica prossima, dalle 17 alle 19. Sì, torniamo. Sì.